pronta a cosa? T'ho detto, io non ci vado quando c'è la marea della gente, che cazzo t'ho detto? Giulio, sei tu? Sì, ciao Marco, sì, sono io. Dalla Portante ti riconosco, vabbè, come va? Beh, diciamo bene. E tu? E oggi è andata male l'uscita e ci mettiamo a casa, così imparano. Vabbè, niente di che, dai. Stavo provando il Vox su altri canali, ti dà sincronizzare questo Vox ad usare in macchina. Lo volevo testare in macchina, però non so quando lo proverò, ecco. Ok. Bisogna che ci sia anche altra gente, no? Per poter ascoltare, se no come si fa a dare il giudizio? Sì, vabbè, bisogna beccare una serata che c'è qualcuno, se no è inutile. Cappa. Vabbè, ma quando vuoi tu, prima di fare le prove, ne fai uno squillo. Metto io in frequenza e così ti posso dare i segnali e tutto quello che occorre. Eia Giulio, va bene. E così invece come mi senti? Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Sto usando un baracchinetto AMFM dei soliti, dai. Va benissimo, è la tua modulazione, è bella, chiara, è abbastanza pulita. Kappa, ecco, io in questo momento sto usando il Vox, sto parlando a mani libere, con un volume di parlato, diciamo come se fossi in verticale, devo fare poche pause altrimenti stacca, vediamo quando stacca. Ok, sì, va benissimo, va. Non c'è problema, io l'ho programmato a 180 secondi, quando supero i 180 secondi allora a mio avviso al tutto e devo staccare. Tanto è inutile allungarlo ancora, posso allungarlo fino a 600 secondi, ma non è il caso, basta un 180 secondi. Sì, ma tu mi stai parlando del time out, quello è il time out che stacca la portante. No, questo è proprio il ritardo del Vox, dello stacco del Vox. Per esempio qua è circa mezzo secondo, è come che fosse un bip. Sì, no, va bene, no, non si sente nemmeno, penso un po', non si sente nemmeno lo stacco, non si sente niente. Io se metto io il ricordo, vediamo un po' come qua. Ecco ad esempio, questo, ecco così ad esempio. Io adesso ce l'ho un po', no? Io adesso ce l'ho un po' il box. E vediamo quanto dura, qualche secondo. Giulio, tu hai inserito l'eco, no? Non è il box quello. Ah, è vero, l'eco sì. Infatti l'eco no, il box non ce l'ho qua. In questo baracchino non c'è il box è tutta un'altra cosa, il box è quello che quando schiacci senza nemmeno schiacciare la portante si innesca e passa la modulazione, solo un po' l'acqua comunque. Kappa, sì, è un po' caotico perché per esempio se muovo il colletto della camicia qua, che poi è una maglietta, non è una camicia, attacca, se ci respiro sopra attacca, se va tarato un po' a puntino, conta che in macchina uno parla a voce abbastanza alta, no? Per via di rumori di fondo. Questo ha tre regolazioni, una è la sensibilità al parlato, proprio la sensibilità del Vox, uno è la cancellazione dei rumori di fondo, una soglia regolabile in modo che non si attacchi con frusci, rumori dell'aria, roba del genere, rumori di fondo. L'ultima è la regolazione del ritardo per staccare la portante. Io adesso l'ho messo a 4, a 4 è un numero simbolico, e vedo che come sto mezzo secondo in bianco stacca la portante. Comunque la timbrica, l'importante è che la modulazione sia chiara, se no è inutile. È perfetta, la modulazione è perfetta, non c'è problema, va benissimo. No, io non ce l'ho più, ce l'avevo nel 440 il box, questo sì, ma non l'avevo usato mai, qualche volta così, solo per fare la prova e basta. Ma tutto sommato non mi interessava, perché quando dovevo parlare ci stavo davanti e schiacciavo il microfono e basta. Ma adesso non ce l'ho più, dunque sono arrivato al baracchino, solo baracchino. Un attimo che qua è un po' spizza, tenendo al bavero lì alla, comunque alla maglietta è un problema, perché guarda, non puoi fare un movimento, non puoi fare un respiro che subito attacca, bisogna ridurre la sensibilità e vediamo un po' cosa posso fare. Sì, ma c'è un minimo rumore da niente, anche quando una macchina che passa per strada se lo apre, non c'è problema. Infatti è una comodità, ma tutto sommato è anche un disguido, se vogliamo, no? Perché a volte uno lo inserisce, ma poi è più che altro fastidioso. Mentre invece uno quando è infadato, piace il microfono e basta, e non se ne parla più. Ecco qua, adesso io ho fatto una prova, ho fatto una modifica, ecco la sensibilità anziché a 1, cioè massima, l'ho messa a 3, in modo che non si attacchi troppo quando muovo un muscolo, capito? E qua muovi un muscolo e trasmette, è una cosa allucinante, ecco, vedi che stacca già prima anche. Beh, comunque in macchina meglio che prendersi una mega multa, già è il Vox, se ti riesci a tarare però, Sì, quello può essere. Se è utile in macchina, certo, poi naturalmente quando trovi il poliziotto che ti controlla bisogna vedere se ci crede lui anche a questo passo del box, lo sai come sono, no? Secondo chi trovi magari trova sempre qualcosa da dire, tanto per scrivere in poche parole, comunque no, è una cosa, sì, è una cosa anche importante. Sotto certi aspetti, ma a me sinceramente non mi è mai servito, anche perché io ho sempre modulato da casa col box, l'ho provato sia no, proprio esagerando, in tanti anni che sono avuto, esagerando 3-4 volte, ma solo a titolo di curiosità per vedere se funzionava, ma niente di più. E vedo che funziona, stacca anche prima, sì, bisogna attararlo accuratamente, bisognerebbe provare a stare fermo in macchina, bordo strada in zona un po' di traffico e tararlo a puntino, perché in casa vabbè c'è silenzio, vedi, sta staccando anche prima adesso, ora che ho ridotto la sensibilità microfonica sta staccando anche prima, va bene, però vedo che comunque funge, cioè io ce l'ho staccato dalla bocca, saranno 10 centimetri di distanza dalla bocca, eppure la timbrica, vedo anche i picchi, hola, sì, vale, ok, va bene. Sì, va bene, no, c'è un problema, va benissimo così Marco, infatti, cioè a difesa della recensione non conta niente, non si nota niente. Sei solo tu magari che puoi avere quella certezza che non rimanga inserito, inserita la portante, ed è per quello che allora serve per ridurre i tempi di stacco, quello sì è vero. Ma tu immagina se sei in macchina, ti passa un'altra macchina a fianco o una moto di quei passi con quelle moto rumorosissime e ti apre lo switch, cioè ti apre la portante per dire no. Sì, se si avete aperti sì, e forse anche avete chiusi. Ecco, adesso l'ho tolto e sono passato al mic da palmo. No, ma poi c'è anche il rischio che, come dire, che senti qualche bestemmia per via degli automobilisti, capito? Qualche poni la breccia, o peggio, qualcosa di peggio. C'è poco fa ho urlato a mamma che mi stava facendo perdere ben dell'intelletto e credo che fosse proprio sul 10 e c'era il box inserito, mi pare che abbia trasmesso, capito? Te l'immagini? Bene, altro cosa bene. Tanto poi non c'è più nessuno che vuoi che abbia sentito. Magari non ha sentito nessuno. Io adesso ero su, stavo facendo un lavoretto, sono sceso così perché ho verniciato una cosa e sto aspettando che asciughi, tanto vernicia all'acqua, perché nel giro di un'ora, due ore massimo si asciuga e posso dare la seconda mano. E allora sono appena arrivato qua, l'ho appena arrivato quando ho visto la portantina, io ho ripetuto anch'io la portante e tu da subito hai capito che ero io. Io uso sempre i due vasi, perciò no, c'è poco da sbagliare, il segnale è quello, Marco, no, non può cambiare, sempre la stessa potenza, sempre al minimo della potenza, questo barattino qua. Sì, ma poi il segnale è relativo perché poi cambiando apparato spesso, vabbè sì, tu sei intorno al 9, bene o male, ma è come la timbrica, non lo so, del tastino, mi quando premi e molli, che è quasi, è quella che riconosco più che del segnale. Ma non ero sicuro, ho detto proviamo a chiamare se lui risponderà. Ho detto Giulio sei tu, avrei pensato all'anima, non si può premere la portante in incognito e ti riconoscono subito. Sì, ma non c'è problema, anch'io prima con quello analogico di prima, l'orbita analogico, conoscevo tutte le portate, tutte indistintamente. Chiunque premesse la portante io capivo chi era, no, non c'era niente da dire. Con questo invece no, qui ci sono le barrette per cui tante volte c'è più QRM e magari sì, sono più alte o più basse, capito? E allora è difficile da capire, però con l'analogico era diverso, era più accettabile, perlomeno secondo il mio punto di vista, perché io ce li avevo tutti segnalati alla grande, chiunque parlasse io sapevo già della portante chi era. Ciappa, anche se, vabbè, uno può anche cambiare potenza, usare una gamma di potenze notevoli. Io mi ricordo che con il riduttore di potenza della ZG potevo passare anche a 100 milliwatt. Se usavo un watt d'ingresso, quello me lo riduceva del 90%, quindi me lo riduceva al 10%, perché 100 milliwatt mi dava. E lì potevi fare, diciamo, la scala con varie potenze, capito? Dalla più attenuata alla meno attenuata, senza contare poi i linearetti, eccetera. Ecco. Io al momento invece sto utilizzando i watt della radio, questa ne ha un po' di più, non ne ha 4, ne ha tipo 12, 13, 14, 15, no, non me lo ricordo mai, l'ho misurato tante volte e tante volte me ne sono dimenticato, per non stare sempre alza bassa, tanto questo in macchina andava, ecco. Questo era il principale per la macchina, perché ti fa guadagnare, anche se usi l'antenna che ne so più corta, ti fa guadagnare un Santiago, passare dai 4 watt ai 15, da. È come, quasi come quadruplicare, capito? 4,16 sarebbe un Santiago proprio giusto. Sì, beh, certo. Sì, no, ma io andando al discorso capire la portante, io associavo anche il rumore del microfono a quel segnale, capito? Perché non so, avevo un orecchio un po' particolare per l'analogico e poi lo vedevo proprio anche in una parte infinitesimale, proprio capivo. Alle volte ci arrivavano dei segnali che erano uguali o quasi, no? Però c'era quella differenza infinitesimale che magari io riuscivo a capire chi era lo stesso, ma comunque poco interessavo, ma era più che altro una curiosità dopo tanti anni che tu senti le persone e sai che se segnare quello e con l'apparecchio che usi è sempre quello e dunque associavo un po' tutto e anche alle ultime volte che avevo sentito la persona associavo tutto a quel segnale lì e capivo benissimo chi era o Marco. Eia, vediamo un po' se mi posso autoascoltare. Prova. No, non mi sento. Prova, ola. È tutto strano sto baracchino in ricezione, boh. Non riesco a sentirmi, boh. abbiamo. Ah, fischiare fischia, sì, poi ogni mic c'è una timbrica particolare. Vediamo se abbasso anch'io. Non so quanti watt. Eccolo che va giù. Va giù. Ecco, questo è il minimo. Non so quanti siano, penso che siano 2 o 3. Penso più 3 che 2 però, 3, una cosa del genere. Non ho il watt, ma è 3 attaccato, non ne lascio io fisso, perché alla fine ti fa perdere segnale anche quello. 1, 2, 3, come è passabile ancora, sì. Sì, a voglia. Arrivi a Santiago 9, arrivi. Anche leggermente avanti anche a 9. Un pochino più, come tipo che può essere, non so, forse 9-1, 9-2, però il segnale c'è, a buglia se c'è. No, io so che due tacche che mi segna qua sono 2 watt, però ho misurato col wattmetro, il wattmetro quello serio e quello professionale, e devo dire che mi dà un watt e mezzo invece. Mentre invece nel barchino me ne segna 2 tacche, il che significa, stando al libretto di istruzione, che funziona con 2 watt e così via. Invece no, lo strumento me ne dà 1,5, sempre in questa posizione. Ma vado anche in FM, così, tranquillo, anche in banda laterale, lo stesso, quando c'è Gavino, ad esempio, di Porto Torres, oppure Franco di Sosso, oppure Tino. Io tante volte in FM, non lo modulo molto spesso in FM, io non aumento niente, lascio così a 2 watt e mi sentono lo stesso. Addirittura Gavino dice, mi arrivi a fondo scala, mi arrivi 9,50, mi arrivi così con quella potenza a 2 watt, ti puoi immaginare. Beh, quello è un eccellente segnale, però infatti lui non è proprio a Porto Torres, è più vicino a Sassari, diciamo a metà strada può essere tra te e Porto Torres, se no. No, lui è vicino a Sorso praticamente, è nella strada per Sorso adesso abita, e tanto è vero con Franco di Sorso, ma sì, sono sempre a fondo scala, hanno a livello di 9,60, tutti e due, sia l'uno che l'altro, e con poche vatte anche Tino lo stesso, arriva anche lui a fondo scala, lo stesso, perché sono tutti nella stessa posizione, perché Tino trovandosi sulla Budi, praticamente, non dico che è quasi al bivio, ma poco manca al bivio per girare, quando vai sulla Budi, no, per girare per Sorso. Non arrivi proprio al bivio, ma poco manca, perché a Sorso è vicinissimo, a Corso Calvino è in quella zona lì stesso, per cui vanno forte alla grande, sono insuperabili tutti. Quando parlano loro sono insuperabili, nessuno li può sovrabodulare. Ah, quindi non tanto vicino a te, più verso Sorso, va bene, allora, premesso che l'altro baracchino senza antenna non arrivo, vedi, non arrivo, questo è 10, no? Proprio una cosa zero, quindi quella cavolata di fondo scala senza antenna è una cavolata. Ti ricordi quando si andava a dare anche la caccia alle portanti, dice ah sono sotto casa della persona, ho staccato il baracchino l'antenna dal baracchino della macchina e fondo scala senza antenna. Non è vero, qua proprio il segnale non sale, sento, guarda, appena la mia vocina di fondo, ma un'immagine fantasma, e sono attaccato allo stesso alimentatore, figurati. Quindi vabbè, va bene, che altro dire? Stavo guardando un po' le funzioni di questo baracchino, è rimasto fermo un bel po', anche questo all'eco, che non deve mai mancare, mamma mia, fissati sono. Emergenza 1-2, il noise blanker l'ho tolto, anche l'autoascolto, però vatti a ricordare come si mette, che qua c'è un menu, 7 volte le voci di menu non sono chiare, non è che c'è scritto di lungo come dire, l'autoascolto con le false bacche, no? Mettono una lettera o due lettere in croce, hai capito? E devi ricordarti a cosa è associata quella lettera. Proviamo l'eco. Aspetta. Qua dovrebbe essere regolabile, ma sempre da menù. Come si sente? Se si sente? Sì, si sente bene. Ciao Gianni, si sente bene, è corto, ma si sente bene, no? È praticamente così, come senti il mio, così tu adesso lo sento il tuo io. Io poi lo posso anche aumentare, naturalmente, lo posso allungare così, posso fare anche così, così. No, quando lo metto solo così, aspetta, così è sento. Sento acceso, ecco qua, così. Io di solito quando lo provo così, in questa posizione, che va benissimo. È entrato Gianni, Marco, lo trovi a corso. Buonasera. Ciao Gian, forse abbiamo parlato in due prima. Buonasera Gianni, stavamo facendo così una prova con il Vox, prima con Giulio, abbiamo iniziato con quello, adesso l'ho staccato e stavo un po' cercando di ricordare come cacchio funziona questo apparato, perché vabbè l'eco, vediamo, io sto parlando, adesso prendo il tasto dei canali, lo prova. Non succede niente, e il talk back come si mette, ragazzi, chi se ne ricorda, riprende Gianni. Sono entrato, parla bene, chi è fissato con l'eco? Peccato che vediamo se appena riesco ad arrivare a questo baracchinetto. No, è tutto strano, proprio di fondo, sono in mezzo al QRM. Conta che sono anche basso, aspetta, basso di watt, eccomi qua, eccolo, adesso arrivo un po'. Prova. Sì, l'ho copiato, è rapido e anche breve come ripetizioni, come piace a me, appena accennato, dai. Va bene, adesso lo posso anche togliere. Vai Giulio. Sì, appena, infatti, sto dicendo, come senti tu a me, in questo momento ce l'hai tu, l'eco. Senza bisogno di allungare, se poi allungo faccio così, allungo un pochino, vedi, ma io non lo uso mai, la verità, lo uso solo nei momenti che dobbiamo fare delle prove, basta, niente di particolare, anche adesso lo tolgo definitivamente, adesso è tolto completamente. Avanti Gianni. Io ho sentito, stavo facendo le pulizie a casa, ho terminato in questo momento, adesso aspetto che asciughi, mi sono sdraiato 5 minuti, adesso entro e li saluto, dai. Stamattina non ce l'ho fatta, troppa roba, perché mi è venuta l'Alzheimer stamattina, nel senso che ne ho smontato tutte le gli zoccoli della cucina componibile e ho pulito tutto sotto con l'aspirapolvere, poi lavato, sono usato 2 ore da voi a piazzare tutto perché si spostavano gli incastri, guarda, e io adesso con l'operazione alle gambe giù non mi posso più inchinare come prima, non posso stare inchinato più di tanto perché poi mi fa male. Andate a dormire. Ciao Torino, dormire a quest'ora, alle 5 meno 4 vuoi dormire, ciao Torino. So io, ma voi, buonasera a tutti. Noi no, stavo facendo un lavoretto addirittura su io, adesso sto facendo pausa perché sto aspettando che mi asciughi una mano di vernice all'acqua, quella in un paio d'ore asciuga bene, per poter dare la seconda mano così me ne libero subito, se no mi tocca darlo domani, invece aspetto un paio d'ore, ho una leggerissima carteggiata e un'altra passata di vernice all'acqua, per cui ho terminato il lavoretto che stavo facendo. C'è Gianni e c'è Marco anche, avanti Marco. Ciao Torino, io sono nato dormendo. Da bene. E tu Gianni, sei nato per star sveglio. Ciao Torino. Troppo alto se non ti capisco. Oh, sono a 5, che cavolo, sempre basso. Non lo metto mai marito che c'è troppo alto. Giulio, come mi ascolti? Io ti ascolto bene, ma io sono più lontano, per cui lo faccio attento rispetto a Gianni, capito? Gianni magari ha un'altra recensione. perché gli arrivi sparatissimo. Allora gli arrivi bene, benissimo, e mi va bene così, perché già capisco abbastanza bene quello che dice, non c'è problema. Gianni, come mai lo senti? Anche se sei vicino, non dovresti sentire bene ugualmente, come mai? Io lo sento così, aspetta che abbassi il volume, prova tu. Prova 1, 2, 3, prova di modulazione. Guarda, ce l'ho a 5, perfetto, metà volume del mic, purtroppo. Non lo metto mai a 6, a 7 perché mi dite sempre troppo alto, lo metto a 5. Guarda un po'. E adesso va un po' meglio, abbassando il volume va un po' meglio, ma sempre forte. Siamo vicini, dove ci vedono le antenne. E lo so, io vedo anche le case vostre, penso un po'. Io se mi metto qua fuori al cancelletto, guardo verso la forza un'altra, vedo già la zona di casa tua. E a te Marconi, come ti arrivo? Allora, vieni avanti, questo è uno smitter di Guttaperca, quindi non conta, però prova. Mi interessa la radio, troppo, e già dice che è troppo forte, vabbè, sono già brochure, non è che sia. Ok, guarda un po' Marconi, dai, 1, 2, 3, prova di modulation, provolone. Sì, questo a leggerlo così sembrerebbe un 9.5 pieno, 9.5 pieno, e da un po' che non tratto questo apparato, quindi un po' devo vedere come si comporta. Comunque fatto sta che io questo TalkBack nemmeno sul menu l'ho trovato, non me ne ricordo, ogni volta devo pigliare il manuale, vedi? Allora ha ragione Torino, come quando ha provato il 5555 che si è buriato del menu, delle impostazioni varie, no? Che magari ti serve e non te lo ricordi, perché tanto te lo dimentichi. Comunque mi interessava la radio, Marco, lì, come ti arrivo di radio? No, vabbè, adesso è migliore, dai. Adesso è migliore. Gianni è che è sparatissimo, è tutto così. Sì, lui è tutto uno scarassone. Gianni, abbassa di rubiolo tu. Gianni è sparito. Gianni abbassa ma non troppo, perché tu adesso mi sa che hai abbassato del tutto, vabbè non ci sei, che si è allontanato. Sì, ma è così, io sono lì, perché lui siete vicini, allora lui arriva, da lui arriva troppo forte, certo, è così, se è così. E anche a me il segnale è lo stesso, il tuo è o Marco, l'olio mi arriva, lo stesso segnale che arriva a te arriva a me, 9.5, siamo lì, forse 9.4, ma siamo lì, non è un problema. Anche perché non è che siano poi affidabilissimi questi controlli con il LED a barrette così digitali. Lo strumento analogico è tutta un'altra cosa, a me piace molto di più, però purtroppo adesso ho questo e via, e dunque il segnale lo con questo io. Però in linea di massimo avevo fatto anche la comparazione quando avevo l'analogico e devo dire che si equivalevano come segnali, però c'è sempre una leggera differenza, perché questo magari ti inganna anche la posizione della barretta dove si ferma un po' più in là o più in qua da una parte, e allora può cambiare anche il segnale, ma cambia di pochissimo ad ogni modo. Avanti Marco. K, vediamo se Gianni è entrato un attimino, aspetta, comunque non la trovo l'impostazione, perché qua c'ha dei comandi diretti, c'è un menu che puoi attivare, vabbè, al di fuori della trasmissione, però non funziona più. Premo qua, niente, premo due volte, niente, non devo pigliare il manuale, o cartaceo oppure online, già si trova. Però è sempre così, è sempre così. E questo apparato c'ha, ripeto, 13 o 15 in AM fino a, e poi in FM ne ha 40. Questa in macchina è un po' peperino, capito? Ti aiuta con un Santiago in più, ti aiuta. Con 40 watt anche un Santiago e mezzo ti aumenta rispetto ai 4 watt canonici, capito? Quindi ti dà una mano se sei più lontano, basso di segnale. Ecco, non è proprio come avere il linearetto che ti aumenta di 2 Santiago, però. Gianni, sei entrato? Eia. Fabetta. Là, sto mettendo a posto Marco, sto finendo di asciugare adesso, sto mettendo i tappeti, sto rimettendo tutto a posto, come la prima. Non ho potuto rispondere perché stavo cambiando apparecchio. sveglia, ma tutti a casa siete, nessuno è uscito, è andato con questo bel sole, col proprio yacht, col proprio aereo personale fuori, no, niente. E vedo pure gli assuriati, anzi, io guarda, ne ho approfittato, verso le due, ho lavato la roba, l'ho messa fuori, troppo è già asciutta. Sveglia, un bel sole, sì, perché c'è la quella famosa bolla africana che, come è passata la perturbazione del nord, si sta bella estendendo lì. Domani deve essere una bellissima giornata, se non cambia, come oggi, se non più calda di oggi. Domani è più calda, così hanno detto televisione. Domani è più calda, ma questo passaggio. Io pensavo che tu fossi in giro in macchina, no, io dovevo finirmi di pulire la casa perché poi stanotte devo uscire, quindi mi devo finire di pulire la casa e poi domani c'ho ospiti, quindi non faceva, lasciarla così. Aspetta, ma sono proprio volato un pochettino, Gianni. Giulio, come ti arrivo di radio? Sto cercando di aumentare, a vedere com'è. Ecco, in questo passaggio, com'è? Uno, due, tre, prova di modulazione. Io ti capisco benissimo lo stesso, anche se aumenti il radio. Però era preferibile l'altra, cioè quella prima, perché c'è cioè quella prima di questa, no? Perché questa seconda modulazione è troppo forte, però ripeto, nonostante che arrivi molto forte, io capisco benissimo quello che dici, non c'è problema. Però ripeto, col volume più basso era meglio, dai, per fare quattro chiacchiere. Infatti l'ho rimesso come era prima, per la posizione normale a 5. Sì, sì, sì, arriva qui a 5, va bene, io ti ascolto in maniera molto piacevole, per cui no, no, non c'è problema, no, non posso dire diversamente perché, ripeto, capisco benissimo quello che dici, per cui Gianni chiaramente avrà ragione di lamentarsi perché, ripeto, siete vicini, siete, allora lì arrivi proprio veramente a bomba, ma comunque per caso devi abbassare per farti capire bene da Gianni, per me va bene ugualmente, puoi abbassare anche volendo, non c'è problema Tony, figurati, se Gianni non capisci puoi abbassare ancora, io ti sento benissimo ugualmente anche se arrivi più basso, tanto più che ho messo anche la colonnina esterna, adesso arrivi anche più amplificato, per dopo. Guarda, se Gianni non mi capisce faccio lo speeding, avanti già. Adesso ti capisco perché ho messo la cassa che c'ha i filtri, che sono riuscito a filtrarti e riesco a capirti meglio, dai. Tony, quando sei vicino è così, c'è poco da fare, e lontanante è diverso, naturale, però vicini non è un'offesa, è anzi, cioè, è perché sta arrivando un bel forte che ti sento così, ma adesso col filtro ti sento bene, ti sento molto meglio. E tu sei un po' cupo invece Gianni, prima eri tutto casino, adesso invece ti sento più cupo, però ti ascolto bene lo stesso. Sì, in effetti Giulio, a me Gianni mi arriva forte un po' con scala perché in linea d'aria siamo dritti lì, siamo lì, io vedo già le case in quelle zone in cui abita lui qui. Ok, Marco di nostro, riprendi. Sveglia, volevamo fare un giro, volevo portare mamma a giro a Platamona così a prendere un gelato, però prima si mette a dormire. Ho detto se andiamo andiamo presto, se no c'è una baraonda di gente e non troviamo manco posto per la macchina. No? Poi si sveglia e vuole uscire quando ha detto adesso ci sarà l'animazione della gente. Io non ho voglia di stare un'ora a girare in macchina a vuoto a cercare un posto. Poi lì in quelle condizioni che deambula male. È un casino, e quindi è saltata la serata, dai. Infatti giro col dente avvelenato un po' prima, adesso mi sto calmando. Marco, no, prendiamo il gelato, siamo a posto. Dai, alla rotonda il posto già lo trovi, Marco, dai. Porta la curarina che almeno esce un po'. No, è uscita ieri, l'altro ieri e ieri l'altro pure, adesso se ne sta a casa. Domani si vedrà. Vedi tu. Io pensavo che tu fossi in giro in macchina, perché solitamente quando ci sono queste giornate qua c'è come le chiliette, c'è il sole. Infatti volevo provare il Vox in macchina, l'avrei provato anche oggi, però niente da fare. E c'ho il microfonino piazzato, quello che attacchi al colletto della camicia, maglietta. Funziona, con Giulio l'abbiamo provato, però è da perfezionare perché col casino delle macchine, sai, la turbolenza dell'aria, perché io ho il vizio di aprire i vetri, poi ti passa una moto che romba e attacca, poi vuoi non tirare una bestemmia a qualcuno che ti taglia la strada, che non mette la freccia, è bello che se vai a inveire il box attacca e quindi senti le invettive via radio. Ma io sono sempre ridotta col microfono amplificato, ma lo mettevo sulla gamba, non mi vedeva nessuno, prelevo il microfono e mi sentivano benissimo, e adesso anche col microfono normale, con l'apparecchio che uso in macchina, mi sentono bene anche quando parlo col microfono sulla gamba. Vabbè, c'è l'up down, come si chiama? E vabbè, compressore, dai, una sorta di compressore dell'apparecchio che c'ho, quindi risulta come se fosse amplificato, e niente. E mi sentono bene, io ho provato anche in lontananza, mi ascolto. Recompresso volevo dire già. L'aria compressa. Recompresso. No, c'è una dicitura che, aspetta, si chiama, Marco aiutami. E vabbè, comunque è una sorta di precompressione, dai. È quella, una sorta di quello. Lo inserisci e ti dà praticamente la compressione al microfono. C'è un microfono dell'SB che è precompresso, che è neutro, però l'ho scollegato, quindi non devi fare nuovi attacchi per questo. Vabbè, Giulio, non ti annoiare, non ti addormentare, riprendi. Scusate, l'expander. Cosa l'expander? L'expander 500 c'avevo io, il microfono al tavolo. No, nel senso, allora, in certi apparati si chiama expander, oppure compander, e quello che ha detto Gianni, praticamente l'apparato comprime l'audio in trasmissione, però per essere ricevuto correttamente ci vuole un altro baracchino uguale o con quella funzione che abbia, fa da compander expander, cioè tu comprimi la modulazione però l'altro che ti riceve attiva la stessa funzione, non funziona sia ricezione che trasmissione, e allora la tua modulazione viene effettivamente aumentata molto, perché se no, se non hai la stessa funzione, sì, un po' aumenta, però non è ideale, capito già? A me si chiama Top Gun, una cosa del genere. Sì, Top Cruise si chiama. No, però già, il Top Gun Modulator è un'altra cosa, quello è la modulazione solo più forte, non è proprio un compressore, un compander, capito? Top Gun Modulator è come il doppio modulatore del 48, in poche parole. Esatto, sì, ma io infatti stavo dicendo la compressione, quello del tutturino, stavo dicendo che il microfono esce più forte di tutto, lo metti sulla gamba e moduli tranquillamente, nessuno ti vede. Se poi vedi che c'è qualche posto di blocco, lo appoggi il microfono e è tutto fatto. E loro non ti possono dire nulla, se ti trovano la radio accesa dici che stai facendo ascolto, punto. Sì, l'importante è che non ti vedano col microfono sulla bocca, capito? Che poi io, vedi, mi perdo in niente, perché io ce l'ho il microfono, due microfoni amplificati da palmo. C'ho anche l'adattatore per trasformare da, quant'è questo, 6 poli a 4 poli. C'è tutto, però sempre sto, mi perdo in nulla, capito? Ma sai anche perché? Perché questi baracchini che io porto hanno i canali up-down sul mic, che quando devi fare carrellata dei canali che sei in macchina, hai di una comodità che non finisce più, capito? Se vuoi trovare un canale occupato. Però il microfono poi risulta normale, non amplificato. Comunque la prossima volta posso provare sia l'uno che l'altro, sia il Vox che anche il preamplificato da palmo. Quello KPO, come si chiama? Quello lì, mi. Quello che io stavo usando poco fa e tu mi hai detto che stavo uscendo male. No già, ma lì forse ogni che viene l'apparato era alto, eri troppo attaccato al mic. Perché eri tutto così, mi trovo tutto attaccato al mic, così. Troppo forte. Cioè se lo alzi lo devi stare a una certa distanza, se no distorci. No, era al massimo, ti dico la verità. Era al massimo e poi l'ho abbassato perché non mi ero accorto che il cursore, cioè a volte toccandolo, facendolo, lo tu senza accorgertene. Il cursore era al massimo, quando tu me l'hai detto l'ho regolato e è andato bene perché mi sono provato. Va bene, avanti Giulio che sei parcheggio, scusaci, ma siamo chiacchieroni. Sì, figurati già, nel frattempo mi sono mangiato una mentina per cercare di schiarire un pochino la voce, perché con questo problema che mi sta sempre assillando quasi tutti i giorni, porca miseria. Comunque vediamo un po' se adesso riesco a schiarire meglio la voce. Ho mangiato una mentina, una caramella da menta, dai. Va bene così. Sì, ma sono tutti accorgimenti che sono comodi, sono utili indubbiamente, però io sinceramente, io tutte le volte che ho avuto tutti questi accorgimenti non ci ho fatto mai caso, l'ho lasciato sempre le modulazioni uguali, come dicono la casa, senza stare lì a modificare con microfono e varie. Per quanto riguarda il microfono qua up down o Marco, io l'avevo fatto, io sono usato l'MB4, sempre quello, no? E questo barattino sa benissimo che io ho il microfono originale con un cambio canali dal microfono, ma l'ho subito tolto perché mi dicevano che come microfono era basso, e allora ho sostituito con l'MB4, che uso sempre quello da sempre, da anni e anni, sempre lo stesso microfono, con anche con altre radio, anche tante volte anche col 440 lo usavo, cosa che adesso non posso più fare perché il 440 non ce l'ho più, per cui mi è rimasto questo e vado avanti con questo barattino. Va bene, dai, avanti Tony. Ecco, aspetta che c'ho qualcosa attaccato, non lo saccare, sono qua in rinesco il casino. Sì, vabbè, come il mio PMR che ha tutti i comandi del microfono, che a me queste cose poco mi piacciono, come diceva anche Marcolino precedentemente, quando avevo il 5555 mi sono rotto le palle e l'ho dato via, perché avevano i computer qua là, c'ha solo una sigla sul tantino, è un casino, e a me poco mi piace, a me piace il semplice baracchino, canale A, B, C, D, F, G, eccetera, eccetera, e canale da 40, sai dove andare. Usare nove, tuo padre, eccetera, eccetera, andava bene. Però quando cominci a avere dei tastini che metteranno in menù per fare certe cose, là me ne scende già dalle scatole, allora via. Ok, avanti va qui. Comunque guarda, io stasera vado in chiesa, accendo il cielo alla Madonna, perché ho sentito gente in radio oggi, miracolo! E cioè? Appunto, che si è rotta oggi, di solito certi giorni lascio acceso sul 10 oppure in scansione con lo squelciato, nulla, serate intere che non senti un cane dall'1 al 40, nulla. Ma io ho fischiato il giorno scorso, è entrato, ho fischiato sul 10, non c'è nessuno, poi ho girato sul 23, non c'è nessuno, aspetto tutto, io sto pochi secondi, non sto lì a aspettare il sistema in QRM, quindi dice Natalino, canale dei morti, che non entra nessuno, avanti già. Non è vero, perché anche ieri sia io che Giulio eravamo in una ruota, c'era una ruota anche ieri, eravamo sul 23 perché sul 10 non c'era nessuno e io danno preferenze, tutti sono amici, quindi ho preso, sono entrato lì, poi ho fatto una chiacchierata lì e poi me ne sono sceso giù col cane. Ah vabbè, sai cos'è, già io la scansione non è che la uso di continuo, magari lascio sul 10 con lo squelcio abbastanza alto, in modo da tagliare fuori americani, spagnoli, tutta la roba, quindi certe volte se non è oltre il 7 il segnale non passa, poi vabbè se entra qualcuno lo abbasso, e quindi vabbè su 23, ok. Poi questo non ha il dual watch, certi apparati invece hanno anche il dual watch. Dual watch, potresti mettere, che ne so, il 10 e il 23, e lui ti fa il 10-23, 10-23. Appena sente qualcuno, con un minimo di squelcio sempre lo devi usare, come sente qualcuno si ferma sul canale occupato, capito? E non tutti ce l'hanno però gli apparati, c'hanno queste piccole differenze, dai. Signori, io stacco un attimo, che adesso, visto che abbiamo parlato di microfoni da palmo, amplificati, io qua in una mensola c'ho un baracchino, quello senza smitter, che c'ha quell'amplificato della ZG, no, da palmo, e ha non due dita di polvere, tre dita di polvere, è stato abbandonato lì da mesi, adesso lo voglio spolverare e pulire da capo, e pulire bene. E quindi faccio bianco e vi ascolto. Riprendi Giulio. Ok. Se ce l'hai, io uso, anch'io ce l'avrei, io ho il canale più 3, però non funziona più purtroppo, perché mi era caduto e di punto in bianco, tac, si è zittito e basta, no, non sono riuscito, cioè non ci ho mai più pensato nemmeno di controllare per vedere se riuscivo a sistemarlo. L'ho messo da parte e basta, ma questo risale già tanto tempo fa. No, non sono io amante dei cambi, microfoni e tutti questi aggeggi, no, a me mi è sempre andato bene un baracchino semplice, normale, tranquillo, e così almeno so che esco bene e basta, perché magari alle volte ti metti a fare tutti questi accorgimenti, tutte queste modifiche, magari esci anche male, e invece in questo modo so che esco bene, originale, tutto originale, e va bene, al limite mi sono sempre limitato a mettere il microfono amplificato, questo MB4, naturalmente quando sono con il microfono originale si sa la modulazione più bassa, e allora ho sempre utilizzato questo, ma niente di più, però modifica di altro genere, anche lineare, balle varie, e chi è che ne ha mai usato? Una volta me l'aveva venduto uno Gianni di Lignaretto 747, cosa ha medulato? Medulato si andò 15-20 giorni perché è arrivato il temporale e me l'ha subito bruciato, e ce l'ho sempre, diciamo che non funziona, e fuori uso, credo che siano i finali, non lo so, ma alle volte può servire un interruttorino, ad esempio qualcosa di ricambio a qualcuno, e ce l'ho, io lo posso anche dare, non c'è problema. Io sono stato sempre abbastanza semplice nelle uscite di frequenza, per cui non c'è problema. Avanti, ho finito. Certo. Vabbè, comunque io entro poco, entro perché molte cose che sto facendo, poi non ci sono quasi mai in casa. Quando rientro non neanche voglia di accedere al palazzo. E quando accendo due secondi così non c'è nessuno, non spengo subito, lo so dire, guarda. Aspettare, qualche volta mi schianto, però niente, già, io spesso vado in certe zone che sono obbligato anche a passare più o meno dove esci, tu col cane, ma non ti ho più visto al tuo buco, chissà se trova Gianni, ci pigliamo un caffè, e invece non dà. Invece per l'orario io tunisco, la sera scendo verso le 7:30, adesso che c'è caldo, verso le 7:30 e poi alle 8 me ne salgo. La mattina scendo, dipende dai giorni, anche alle 10:30, alle 11, dipende dall'ora che mi alzo, dai. Gara, e vabbè. L'altro giorno ho visto Grazia, si è fermata, ci siamo salutati, ed è morto lo zio, poverina. Vabbè, cose che capitano. Ma dimmi una cosa, quel tipo extracomunitario, sempre solo a un idome sopra quel cavolo di gradino, come ti fatti? Piove o non piove, sempre lì. Sì, quello che c'è sulla strada nuova che porta al monte, quello fa la preghiera la mattina, tu lo vedi facendo la preghiera, inchinandosi, facendo, e poi canta, sempre lì, è sempre su quel muretto, sempre su quel muretto. Perché viene il gaggi, inutile, ha dentro un mito. Oh, ma questo c'è solo bottiglie di acqua, ma non mangia il cresciano. Ma penso che ci siano gli angel che li portano da mangiare. È un'associazione qui col Vasco Rosso, non so se li conosci, si chiamano gli angel, che vanno a portare la roba da mangiare a queste persone disadattate, queste gente che sta in strada, dai. Fate bene a voi, non c'è passo in chimica, passo spesso, diciamo. Avanti giù. Ok. A differenza di me che sono qualche annetto senza passare in quella parte alta del monte. A dire la verità, l'ultima volta che sono passato lì, dalla parte alta, è quando sono andato lì, quando c'era le cose, le vaccinazioni lì in Canada, in quel coso lì. Da allora che c'è più passato? Boh. Ma già da ancora prima ero stato un tantissimo tempo che non ci ero più passato. Pensare che prima io ho abitato lì al monte, che Alessandro Manzoni, che è stato pulito per l'esattezza, per tantissimi anni, e poi naturalmente non ho più frequentato la zona. Dopo che mi sono sposato non ho più frequentato la parte alta, solo nella parte media del monte ho sempre circolato praticamente, da quelle parti lì, in alto mai più. Vabbè, comunque, non avrò, anzi volevo salire perché poi ve l'ho detto, cioè avevo letto sul computer, avevo letto che un uomo si era dedicato a fare una specie di giardino lì in via Castiglia, quella zona lì, e hanno detto che è una cosa bellissima da vedere. Anche il comune dice che è andato a collaudare questo giardinetto, e quest'uomo ha fatto tutto, o perlomeno ha chiesto la colletta dalla gente che abita lì. È un uomo che ha fatto un gran bel lavoro. Ecco, così per curiosità voglio andare a vedere che tipo di lavoro ha fatto, visto che ne parlano bene, anche sui giornali l'avevo letto questo articolo qua, non so se voi l'avete mai visto. Comunque andrò a vedere, avanti Tony. Capo, a chi è che vuole entrare? No, perché mettiamo a portata, visto che parlavi tu, a colpi, a ceppo. Avanti, già, l'hai notato la portatina? L'ho sentita anche io la portata, ma allora io ho pensato che non si fosse accorto, magari stava facendo una prova e non si fosse accorto che c'era gente, la più giusta è quella, se no siamo sempre le sue. È stata due colpi, ma poi continua la ripetizione, un bel po' dice, insomma, alla fine tu non è che stai provando il microfono, magari se ne scopre che ci siete sta parlando. Vabbè, dai. Ok, lascio aperto. E niente, siamo vedrato, una zona si chiama Badimanna, così è già. Allora, Badimanna è la zona dove ci sono io, la mia è zona Badimannizza. E poi Badimanna è un po' più su, sì, più o meno sì. E dove c'è quel tipo là? Badimanna, dove la zona che poi si a sinistra e ci di giù nella valle che giù, la casa, eccetera. Cappa. Prima era tutto campagna, di tu pensa che quando io sono andato a abitare ci arrivavano le pecore fino al portone, le trovavamo davanti al portone le pecore. C'era la villa, te fresco già? C'era il pastore lì, dove c'è Piazza della Meridiana, lì c'era un pastore, dove c'era la chiesa, che c'era tutto il bestiame. Sì, è nato molto grande, è diventato sassa, dai, piano piano sta crescendo anche lui, vabbè, già ci vuole. Oi, per carità, guarda, è che vuoi dire, io devo scogitare qualcosa da fare più grande, perché troppo piccolo a me non mi piace più, io vorrei espandermi, come si parlava a me espandere. Voglio realizzare qualcosa di positivo, di grosso. Però sto pensando in che cosa mi posso infondare, non lo so. Ci devo pensare bene, prima di sparare qualche cazzata oppure sbagliare qualcosa, invece no. Me lo studio bene sì, e voglio aprire qualche cosa, qualche cosa di positivo. Vediamo. Ma in che campo? Nel lavoro? Campo. E fai l'influencer, è più positivo di così, adesso è all'ordine del giorno, è il nuovo mestiere, fare influencer su internet. Allora una cosa è mia, privata, voglio fare, capito? Non voglio mettere altre persone, voglio solo gestire io e basta tutto. Gradire sì, quello sì, perché no. Però vediamo. E poi se devo riprendere persone come società, diciamo, c'è strada nel senso, non mettono niente, però risultano come soci, paghi una minima cosa di assicurazione, capito? Quindi, società purtroppo da zero, quindi qualche piccolo introito ce l'avranno, sì, ma se devo studiarmela bene Gianni, non è più buono di altre attività così, quando purtroppo no, devo cantare bene. Se riesco come sto pensando, poi neanche un annetto, poi mi c'è marzo e non trovo più, e rimango a Tenerife. Fai l'operaio express, ti metti idraulici, ti metti elettricisti, ti metti un po' di tutto. Prima a portatore ce n'era uno, poi vabbè, è andata male. Però facevano di tutto, abbiamo la serratura delle porte, anche la domenica venivano, c'era qualche problema la domenica veniva. Sì, ma anche io faccio serramenti, capito? Da parere serratura di tutto. Placcacci, so, roba. E intervento, diciamo, con intervento anche di domenica non c'è problema, anche di manca la luce di notte, io sono l'ultimo che vado. Cioè queste cose qua, insomma, la sassa del noce. Perché se chi ha una ditta, zero, non ti rispondono neanche, ufficio chiuso, eccetera, eccetera, con il tuo cellulare 24 ore su 24, cacchio me ne frega, tanto sono in pensione. Quindi, no, vediamo, no, sono andato cercando di studiarla, poi si vedrà. Prezionisti ovviamente, c'è una cosa da fare perché non mi interessa. E allora Giulio, cosa dici? Cosa dico, Tony? Niente di particolare, sempre quasi quasi sempre fuori a casa, esco pochissimo, perché ho dei problemi per cui non posso bilanciarmi troppo, allora preferisco rimanere a casa, almeno sono più tranquillo. Di solito quando esco sempre in compagnia con mia figlia o mia moglie, però raramente esco da solo perché ho dei problemi. Comunque pazienza, cosa vuoi dire? Ha 82 anni, cosa vuoi che ti dica? 82 anni, il 29 aprile, compio, che può qua dire, tutto detto, quello che dovevo dire io è tutto detto. Speriamo di continuare a vivere, che lo sa, che lo faccio come ha fatto mio padre, se n'è andato a 82 anni, io ci sono arrivato a 82, caro Sambo, sono nelle mani di Dio, o Tony, cosa vuoi che ti dica, non so cosa dire, mi prendi. Perché uno 85 anni, se lo vedi un grillo, guida la macchina, però c'è un difetto, quando beve un bicchiere di vino, là che non rispondo più, devo fare il secondo capo a terra, o alla Ianna. E beh, ti sei fatto male, no, già passa. E me fa tre figli il topo. Non vede nulla, prende la macchina, pura ciaconata, la faccio usare e poi perde gli occhiali, già vede poco. Una sera, non sai com'è. No, dicevo con Giulio, comunque nel fattore, di quello che sto pensando di fare. Cosa ti sembra? Una buona idea? Non mi hai sentito Giulio, dai. Giulio, la domanda era rivolta a te, l'interrogativo. Torino ti ha chiesto se ti sembra una cosa buona quello che sta pensando di fare. Sì, ma senza dubbio, se lui se la sente di fare questi lavoretti è una cosa buona, sì. Fai un po' di biglietti da visita, li metti nelle cassettine delle lettere e c'è sempre qualcuno che ha necessità di fare qualcosa, che so io, riparare l'impianto elettrico o cambiare una maniglia, la porta, queste cose qua, tutti i lavoretti che possono servire, perché no, tanta gente li fa questi lavori, però sappi che ci sono in giro anche tanti pasticcioni, per cui tante persone lo fanno anche con pretesto magari di riuscire a rubare anche nelle case. Naturalmente questo lo so benissimo, non è il tuo caso, ma voglio dire, ci sono anche questi delinquenti che hanno trovato il sistema come riuscire a entrare a casa degli altri, capito? Magari si approfittano di una persona anziana, si approfittano e allora, ma è tutto un altro discorso, ma non ho voluto allungare il discorso, ma certamente no, non è il tuo caso, ci mancherebbe altro, Tony, so benissimo che sì, no, non c'è problema. Senti Tony, è un lavoro che puoi fare, fallo, perché no? Non è una cosa abbastanza tranquilla e ti diverti anche, tra l'altro, oltre che passi il tempo, ti diverti tutto.